ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, ben ritrovati all'ora di cinema di Radio 24. Questa è La Rosa Purpurea, io sono Franco D'Assisi. Proposte cinematografiche anche questa settimana ce n'è, e ce n'è molte anche in sala all'aperto, magari nelle arene oppure nelle sale cinematografiche al chiuso, che comunque sono ancora funzionanti, anche se in maniera percentualmente ancora forse insufficiente. Ma del resto il grande tema, lo sapete, è quello della presenza, o in questo momento soprattutto dell'assenza e dei continui rinvii dei grandi film che avrebbero dovuto animare quest'estate, ma che a causa ancora della pandemia che scuote in maniera forte soprattutto l'America in questo momento, stanno avendo dei rallentamenti. Ciò nonostante, arrivano in sala alcuni film di cui parleremo anche con Carlo Luglio, regista del Ladro di Cardellini, per esempio. Questo è un nuovo film che esce in sala. Torna in sala invece con un numero di copie importante Gli anni più belli di Muccino. Riascolteremo la nostra intervista che facemmo a Gabriele Muccino proprio nel mese di febbraio, se non sbaglio, quando il film arrivò nelle sale. Sarà l'occasione anche per sentire un contributo molto particolare legato a una operazione della Fondazione Prada con Bertrand Bonello, interessantissimo regista della scena francese. Ma vogliamo cominciare con lo streaming, perché il primo film di cui vogliamo parlare, tanto per stare in un clima molto estivo, parliamo di squali. Ora, il tema dello squalo che mangia tutto è stato trattato e ritrattato, a partire dai capolavori come quello di Spielberg in poi, come un tema ricorrente, quasi un genere proprio del film, del cinema, il film di squali. Ritorna questo genere con un sequel che si intitola 47 metri Uncaged. Voglio portarvi in un posto segreto che nessun turista riuscirà mai a scoprire. Andiamo! Ok, accendete le luci! Sasha, a malapena ci passa il tuo culo lì. Almeno io ce l'ho un culo. Ecco l'ingresso, è in fondo alle scale. Ragazze, siete pronte? Che cos'è? È un allarme di emergenza. Riesci a sentirlo? Aiutami! È un labirinto! Moriremo qui dentro! Sasha, dietro di te! Alle spalle c'è il fortunato 47 metri, che comunque nel suo genere ebbe un certo successo. Siamo nello Yucatan, due sorellastre che non vanno molto d'accordo, una più introversa, più timida, immancabilmente bullizzata a scuola. Sembra che senza questo ingrediente gli americani non riescano a fare film che abbiano per protagonisti i minorenni, i teenager. L'altra, Sasha, sicura, disinvolta, l'avete sentita nella clip. Il tema è: vanno in un laghetto a fare un bagno, mentre il padre aveva regalato loro i biglietti per un'escursione a vedere gli squali dalla barca, dai vetri di una barca, di quelle che hanno i vetri sott'acqua, avete presente? Invece loro no, loro prendono, vanno nel laghetto e raggiungono una situazione di città sommersa maya. Vedete che siamo ben oltre l'improponibile, se volete, con le pinne, vanno giù, vanno in questa città sommersa maya alla quale sta lavorando il padre delle due ragazze, che è un archeologo sottomarino, e lì lo squalo, anzi gli squali, si faranno vivi e, come dire, creeranno abbastanza subbuglio. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tu non sei nel mare con gli squali, giusto? No, per fortuna no, sono alla Maddalena per la valigia dell'attore, ma qui per ora non hanno trovato squali. Ecco, allora stai salvo sulla spiaggia, stay safe, come dicono gli americani. Qui, ecco, io ho citato il capostipite di ogni film sugli squali che tutti ricordiamo, ma qui siamo distanti veramente anni luce, anzi miglia sottomarine. Succede tutto quello che può, anche qualcosa di più, e tutto sommato però non c'è un momento in cui empatizzi con le protagoniste, piuttosto empatizzi con gli squali. Beh, questo devo dire che per dare proprio una giustificazione blanda a regia e produzione è quello che succede in quasi tutti i film di questo sottogenere, cioè turisti idioti vanno a solleticare animali affini che non dovrebbero in posti che non conoscono sostanzialmente. Da turistas a hostel, là erano esseri umani, succede spesso. Però certo che se in Sharknado, perlomeno per l'ironia che sottendeva a tutta la trama, tu qualche empatia verso gli esseri umani, qualcuna, riuscivi a provarla, anche se poi ti divertivi molto quando morivano, in questo caso proprio ti chiedi perché siano sopravvissuti fino a quel momento, cioè perché siano dovuti arrivare degli squali ad ucciderli, perché questi erano inadatti alla vita da molto più tempo. Fuori dallo scherzo, è chiaro che siamo in presenza di un gioco, siamo in presenza di un racconto che va ben oltre la sospensione della credulità e che la pretende, essendo questo un sequel. Quello che va meno è che questo è un sequel che, a differenza del precedente capitolo, manca di originalità, ma soprattutto, non che il primo ne avesse così tanta, ma soprattutto ha un budget estremamente superiore, supera i 12 milioni di dollari, e quindi ci si poteva divertire di più, si poteva anche magari fare un horror tra virgolette di situazione, come di fatto sono tutti gli Sharknado, ma parliamo anche di Piranhas e via dicendo, e invece si cerca semplicemente di battere il ferro finché è caldo. Non ne esce una cosa da mettersi le mani nei capelli, cioè per gli amanti del genere si portano anche a casa la pagnotta, ma è molto complicato giustificare una spesa così enorme per un genere che normalmente è povero. E francamente, di fronte a quel tipo di investimento, si poteva forse, nonostante l'horror non sia proprio riconoscibile, riconosciuto per i propri cast chissà quanto illustri, si poteva forse lavorare meglio anche, non dico sulla recitazione, ma almeno sulla presenza scenica degli attori, che invece subiscono quel moto di antipatia che dicevamo da parte dello spettatore, che toglie anche quel cotè di paura e lo fa diventare demenziale quando non lo vuole essere, o comunque non lo vuole essere del tutto, appunto uno Sharknado che non ce l'ha fatta. Il risultato è che, come sempre accade in queste situazioni, il vero amante del genere, fosse solo perché è un collezionista, se lo deve vedere, perché lo può citare nelle scene nerd con gli appassionati suoi sodali. Tutti gli altri che magari amano l'horror e amano il genere, però insomma sono un po' più di bocca raffinata, francamente possono evitarlo. 47 metri Uncaged, ricordo su Chili, Rakuten, Sky Prima Fila, insomma in tutte le piattaforme a pagamento in streaming. A questo punto linea alla viabilità, noi torniamo insieme fra poco ancora con Boris Sollazzo a parlare di altri due film che arrivano in sala. Uno è Famosa, cominceremo da quello, e poi un film molto molto divertente che si intitola Un divano a Tunisi, fra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La rosa purpurea. Ma che fai? Che te stai leggendo, Pirelli? Guarda che se viene, mi rovina la testa, fidati. Ma che te frega, ci facciamo fare la conquista. Ci male, sono geloso, sai. Amore di zia, sbriga da irtene da sto paese maledetto. Avete sentito una clip da Famosa, il film che segna l'esordio alla regia per un lungometraggio di Alessandra Mortelliti con Jacopo Piroli, Adamo Dionisi, Gioia Spaziani in un cast assolutamente giovane. La storia di Rocco, un ragazzo quasi diciottenne che vive in un paesino di provincia, nella provincia di Frosinone precisamente, questa provincia è molto presente nei dialoghi proprio dalla pronuncia, insomma, dei suoi attori, anche quelli più adulti, dove è fatto, e qui è un punto di contatto con il film di Squali che abbiamo raccontato poco fa, è fatto oggetto del dileggio dei suoi coetanei perché è introverso, perché forse è vagamente omosessuale, cosa di cui ancora non se ne ha sicuramente contezza. Detto questo, Rocco è un solitario, un ragazzo che vive un po' ai margini, lo sostiene una zia, un po' matta, un po' strana, ma molto, molto simpatica, che diciamo incoraggia il suo sogno, che è quello di partecipare ad un talent i cui provini si terranno a Cinecittà. E tu che vuoi diventare? Io voglio ballare. Con tutto il cuore sei bellissima, non potevo più Nome? Rocco Fiorella. Oh, Marocco. Ha detto un sacco di cose, ma dice che vuoi far ballerino, vai via. Sei bellissima. Boris, sono tanti film che raccontano questo desiderio di emergere e il tema dei talent è ormai diventato un tema presente, insomma, anche fra molti giovani come chiave per arrivare al successo. A me viene sempre in mente Bellissima, ma sì, siamo dal parte di un capolavoro del neorealismo in cui Anna Magnani a tutti i costi voleva che la piccola figlia venisse scritturata per un film di Alessandro Blasetti. Ecco, qui siamo un po' lontani dal modello di Visconti, ma il senso è quello, cioè è quello di trovare dentro l'affermazione se stessi, non per l'affermazione in se stessa, ma proprio perché è l'unico modo di realizzarsi al di là di una società che anche in questo caso ti vessa per quello che sei, per come sembri, per come vesti e per il tuo aspetto esteriore. Ma sì, forse il modello più famoso è proprio Billy Elliot, che poi lo rende estremamente pop, anche se a me è venuto in mente un film che è stato più sfortunato a livello di sala, ma che è davvero un piccolo gioiello, che è L'età imperfetta di Ulisse Lendaro, che di fatto costruisce più o meno lo stesso tipo di racconto, anche se qui l'affermazione dell'identità dell'artista, tra virgolette, del ballo, è data per scontata, però volta al femminile, con più o meno le stesse tematiche, con una profondità maggiore e anche una migliore riuscita stilistica. Detto questo, siamo comunque in presenza di un'opera, soprattutto perché d'esordio di buon livello, in cui non si sceglie una strada facile per raccontare quello che è il turbamento che può essere all'interno di un romanzo di formazione al cui centro c'è un adolescente che deve affrontare un'impresa che di fatto combatte tutte le convenzioni. Un uomo non balla, un uomo non può avere, soprattutto in certi posti e in certe famiglie, un'identità sessuale non definita, e quando si raccontano queste storie si rischia la retorica, il patetismo e, nella migliore delle ipotesi, un certo uso dello stereotipo. Ecco, la Volterlini, al di là di alcune sporcature di regia, alcuni momenti che chiaramente hanno anche una sofferenza di produzione inevitabile, e forse qualche personaggio che è un po' tagliato con l'accetta, riesce nel complesso invece a raccontare questa storia come va raccontata, con delicatezza, ma anche senza aver paura di dire determinate cose e di prendere determinate posizioni, anche perché noi non dobbiamo scordarci che siamo un paese tagliato con l'accetta, che siamo un paese purtroppo di stereotipi, basterebbe insomma vedere la nostra televisione per capirlo. E ne esce fuori un film che chiaramente non è dalle parti di Bellissima, che probabilmente ha anche epigoni migliori, ma che dimostra che c'è una vitalità in un certo cinema indipendente italiano che potrebbe trovare una fioritura proprio nella crisi attuale, in cui servono più idee che soldi, anche perché i soldi non ci sono. Diciamo che per la recensione migliore può essere: non vedo l'ora di vedere il prossimo film di questa regista. Effettivamente, quando c'è un esordio che ti lascia appunto intravedi dei momenti di cinema e di possibilità di costruirci sopra una carriera magari imperfetta, come in questo caso in Famosa, dove tutto il contorno è tutto sempre molto esagerato, eccetera, ecco, la voglia che ti viene è proprio quella che dicevi tu, Boris, quella di guardare e aspettare il prossimo film. Il secondo film poi è sempre più difficile per un regista. Andiamo a giocare insieme, perché come sempre abbiamo due Blu-ray che vi aspettano, e in questo caso di un film che ha contrassegnato il percorso di un grande autore italiano. Sentiamo. Io so che lei è qui da un'ora e ancora non mi ha detto niente. Mi parla di scarpe, di asili, di mamme, dell'estate del 1972. E magari ora mi farà anche la storia della sua generazione. Ecco, l'avete sentito? Non avete sentito il famoso autore, regista, attore in questo caso, ma insomma, se avete già individuato il film, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano, di cui fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Sono venuta a Tunisi per lavorare. Aprirò il mio studio sul tetto. Uno studio di psicanalisi qui a Tunisi? Non voglio dei pazzi in casa mia. Ho bisogno di un certificato per il lavoro. Non sono un medico. Non do certificati né medicine. Allora a che servi, scusa? Ho sognato Saddam Hussein, poi Assad, solo dittatori arabi. Tutte le volte sono io che li bacio. Si chiama Selma Derwich, è una psicanalista, 35 anni, è tornata nella sua Tunisia da Parigi, dove faceva il suo mestiere con... forse la missione, il sogno di provare a fare lo stesso mestiere nella Tunisia post-rivoluzione delle primavere arabe. E ottimista su quello che potrà succedere, Selma costruisce il suo studio laboratorio sul soffitto della casa dei suoi parenti, e lì prende questo divano, questo canapè, che sarà il centro, come ogni lettino da psicanalista, il centro della psicanalisi di un paese, metaforicamente, perché su quel divano cominciano a sedersi personalità e personaggi di tutti i tipi, fra scene esilaranti e momenti di grande riflessione, appunto, sui destini di un paese che forse non è uscito del tutto ancora, appunto, da una rivoluzione che sembra permanente. La regia di Manel Labdi Labbé, regista tunisina, e il ruolo di protagonista è di Golsfite Farani, un volto che non dimenticherete. Grande successo in Francia, è uscito nelle sale cinematografiche italiane qualche settimana fa in sala, ma sto continuando a girare, sta continuando a essere richiesto anche in tutte le arene estive, perché è un film davvero che sta convincendo molto. Boris, siamo dalle parti di Caramel, se vogliamo, no? Di Nadine Labaki. Il tema è quello delle donne che si confrontano. Lì era un salone di bellezza a fungere da divano dello psicanalista. Qui forse si aggiunge un elemento anche di laicità dentro questa società, di uscita da una tradizione, quella appunto di affidarsi alla psicanalisi, perché è un paese che ha bisogno di trovare la verità su se stesso. Non è un caso, secondo me, e sto scherzando, che Nadine Labaki e Madeleine Lebedi abbiano lo stesso numero di lettere di nome e cognome. Per un attimo ho pensato che potesse essere solo nome de plume. Ovviamente sto scherzando, però è un segno di come, cioè, sì, è un certo tipo di cinema medio orientale che si sia di fatto staccato dai grandi maestri che avevano scenografie più rurali, che avevano anche metafore più alte, ma allo stesso tempo anche più lontane, perché non potevano spesso, per motivi di censura, affrontare direttamente i problemi che i loro paesi avevano, e che sono frutto di una primavera araba che nel cinema si è anticipata molto rispetto a quello che è stato poi nella storia. Ovvio che Un divano a Tunisi è figlio anche della primavera araba politica, non è un caso che parliamo di Tunisi e di Tunisia, da cui tutto è partito, non è un caso che a psicanalizzarsi sia il paese che in qualche modo ne rappresentava le contraddizioni maggiori, con una borghesia, un'alta borghesia, soprattutto nel mondo della comunicazione, molto forte, che ha in qualche modo avviato la primavera araba e anche la strumentalizzata. E tutto questo provocava e provoca in un artista la necessità inevitabile di dover psicanalizzare un paese, e il modo migliore per psicanalizzare un paese spesso è mettere i suoi cittadini sul lettino. La forza di questo film è che riesce a farlo con profondità, con sensibilità, con intelligenza e anche con momenti di creatività molto forti. Penso a un paio di scene oniriche, a un modo di girare e di narrare che non sono consueti, e riesce a farlo però senza mai perdere la leggerezza, cioè senza mai prendersi davvero sul serio, ma affrontando tutto molto, molto seriamente. Ed è per questo che mi viene in mente Caramel, come succede a te, perché inevitabilmente ha quella leggerezza che la Labaki aveva nel mostrare uno spaccato di una società in qualche modo, non dico innocuo, ma che non è politico, senza farlo però nemmeno con lo stile di un Farhadi, che ovviamente sceglie la tragedia privata da mettere in scena. Si può raccontare anche con leggerezza quello che angustia un paese, ed è probabilmente l'unico modo per essere, tra virgolette, maieutici, come deve essere giustamente uno psicanalista. Il risultato è che è un film pop, popolare, che si fa amare, che fa divertire e che può trovare una larga fetta di pubblico che può portarselo nel cuore, e allo stesso tempo è anche un grande film d'autore. Questo lo si deve anche, lasciatemelo dire, a un'attrice come la Farahani, che probabilmente della sua area geografica, ma in generale in tutto il mondo, è una delle interpreti migliori che abbiamo contemporanea. Buonasera. Ha la licenza per esercitare? La mia pratica, stavo dicendo. Lei crede che sarà accettata? Ah, inshallah, inshallah. La prego, sì o no? Te l'ho detto, inshallah. O divano a Tunisi, nelle sale e soprattutto nelle arene estive. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E diamo adesso la linea alla regia, fra poco ci ritroviamo insieme per parlare della nuova uscita, del ritorno nelle sale cinematografiche italiane degli Anni più belli di Gabriele Muccino. Riascolteremo l'intervista al regista e poi un altro regista con una novità, anche questa in sala, Il ladro di Cardellini con Carlo Luglio, fra poco. Quale sarà la professione più richiesta in futuro? Quali nuovi lavori 4.0 esistono già? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Sono Anna Marino e con I lavori di domani vi spiego in concreto cosa fanno e quanto guadagnano blockchain designer, strategist, data scientist, ma anche l'enologo o il magazziniere 4.0, tutte le figure più richieste nei prossimi 5 anni, ma che nell'80% dei casi le imprese non trovano. Insieme capiremo il lavoro che c'è e i lavori di domani. In onda ogni domenica dopo il GR delle 8 e i dettagli nella versione podcast su radio24.it. La rosa purpurea. Ma allora è vero, tutte e tre di nuovo insieme. Ma che meraviglia è questa? Giulia. A me mi sembra ieri che stiamo sempre insieme, appiccicati dalla mattina alla sera. Alle cose che ci fanno stare bene. Ciao. Oh, ma ci hai pensato a noi tre là dentro? Se andiamo a Barcellona. Bella Barcellona. I sogni, la realtà, gli anni che passano, gli amici che si fanno male, si feriscono l'uno con l'altro, ma poi si ritrovano. Gli ingredienti degli anni più belli di Gabriele Muccino, il film che era uscito nelle sale all'inizio di febbraio di quest'anno, due settimane prima che il Covid poi travolgesse tutto il mondo e anche ovviamente le sale cinematografiche italiane. Il film stava andando a gonfie vele nel momento in cui il Covid chiuse le sale, e adesso Gli anni più belli è tornato in 44 sale cinematografiche. Sono tante per quello che è questo momento, considerando che ce ne sono aperte il 15% forse di tutto il patrimonio nazionale. E allora l'uscita più importante di questi giorni è proprio Gli anni più belli, il ritorno in sala degli Anni più belli, che sta girando e facendo molto bene anche nelle arene estive. Un cast che è un po' la meglio gioventù, ormai la meglio maturità, diciamo, di una generazione di attori, per Francesco Favino, Kim Rossi Stewart, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti, tanto per citarne alcuni. La storia di quattro amici raccontata nell'arco di 40 anni, dal 1980 ai giorni nostri. E allora, noi avevamo incontrato Gabriele Muccino qui a Milano nella presentazione del film, e abbiamo voluto rispolverare questa intervista e riproporvela proprio per rafforzare l'idea di tornare al cinema, per chi non l'ha visto, a vedere questo film, che comunque ha rappresentato un segmento molto importante della stagione cinematografica corrente, finché c'è stata una stagione. Gabriele Muccino, alla Rosa Purpurea, avevamo cominciato parlando di questo inno all'amicizia e alla forza di un sentimento immortale. L'amicizia viene messa a prova, a dura prova, dal tempo che scorre. Il tempo è il nostro maggiore alleato e nemico. Il tempo, nel suo incessante scorrere, ci modella, ci impone continuamente una lunghissima serie di imprevisti. Ogni imprevisto, ogni singolo imprevisto comporta una scelta che noi faremo, e ogni scelta è come uno scambio di un binario, porta la nostra esistenza ad andare in una direzione. Quindi la somma di queste scelte definisce il nostro destino, e il film quindi parla proprio di quanto il tempo sia il burattinaio delle nostre esistenze, e di come un'amicizia, nel caso specifico, venga messa alla prova del tempo, quindi della erosione degli ideali, dei sogni, degli innamoramenti, dei tradimenti, delle velleità e delle ambizioni a cambiare il mondo, a renderlo migliore, a plasmarlo meglio di come non avessero fatto i nostri genitori. Tutto questo, che è quello sguardo verso l'infinito che si ha quando si è adolescenti e che il film anche racconta, viene poi eroso dal passaggio del tempo che ci modifica, ci porta a essere posseduti da quello che possediamo. Perdiamo la libertà di scegliere la mattina cosa fare la sera, diventiamo uomini e poi diventiamo genitori e la vita prosegue attraverso i nostri figli che, come nel film, ripartono esattamente dove i protagonisti adolescenti iniziano la loro storia. Tre amici e una ragazza, potremmo un po' definirlo anche il tuo film, però questi tre amici sono persone molto diverse. Volevo chiederti come hai lavorato questi archetipi, cioè quello che duro e puro, Claudio, no? Santa Maria, duro e puro, non vuole fare compromessi con la sua professione, con quello che vorrebbe essere il suo lavoro e non ne fa, e però paga duramente. Quello che invece aspetta, sembra non avere ambizioni, parlo di Kirsty Stewart, aspetta, un giorno viene premiato da questa medietà che ha scelto un po' come modo di vivere, quello invece che poi sfonda, fa carriera e forse va oltre quelli che potevano essere i suoi paletti, sì, che si era messo. Ecco, come hai lavorato questi stereotipi? Li hai avuti come amici nella vita? Li hai visti? Perché hai scelto queste figure? È un po' tutto, sono un po' degli archetipi anche in qualche modo, li ho avuti anche nella vita, sono degli archetipi umani, tracciano un po' tre esempi e anche esemplari di comportamenti degli uomini messi sotto la pressione della vita, e aggiungo anche il personaggio di Gemma, di lei, perché anche lei viene messa alla prova del tempo, della vita, dello smarrimento, del non sapere chi è, della ricerca della propria identità, della propria persona, di un'ambizione che non c'è inizialmente, del giudizio degli altri che ti guardano, ti osservano e ti giudicano e ti fanno sentire spesso inadatta. Tutto questo ho cercato di raccontarlo in questo film attraverso quattro personaggi che, attraverso le loro incompiutezze ma anche le loro riflessioni su ciò che attraversano e che poi divengono, raccontano i motivi per cui le nostre vite sono andate in varie direzioni, a volte così diverse da quelle che noi ci aspettavamo. Grazie Gabriele. A voi. E siamo giunti alla seconda traccia del film misterioso di oggi. Ecco, noi volevamo chiedere qualcosa riguardo del quadrato magico raffigurato nel quadro di Albrecht Dürer, La melanconia. Sì, La melanconia, me lo ricordo. E qui abbiamo, come dire, svelato con questa voce inconfondibile un pochino di più di questo film che dovete indovinare. La Rosa Purpurea @radio24.it, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo, ci sono due copie che vi aspettano di questo film in Blu-ray. Fra poco sveleremo tutto, adesso dedichiamoci al Ladro di Cardellini. Ma sai parare una rezza tu? Comincia a venire appresso a noi, a vedere come si fa questo mestiere. Una cosa è farlo per passione, ma 200 cardellini in poche settimane, ma come si fa? Come si fa? È impossibile. Un gruppetto di bracconieri, di cardellini, gli uccellini che devono poi allietare col loro cinguettio le giornate domestiche di tante persone. Il particolare, diciamo così, gruppo di protagonisti di questo film, Il Ladro di Cardellini, di cui vogliamo parlarvi, che arriva nelle sale cinematografiche in questo fine luglio e del quale è regista Carlo Luglio, e non poteva che uscire a luglio, ovviamente, battuta facile, scontata, ma insomma inevitabile, diciamo, che è in collegamento con noi. Ciao Carlo! Ciao, buongiorno a tutti. Ben trovato alla Rosa Purpurea con questo film, Il Ladro di Cardellini, una commedia molto napoletana nello spirito, perché racconta quell'arte anche di arrangiarsi e di riuscire a sopravvivere magari ai limiti di una legalità che però sembra sempre qualcosa di molto lontano, perché in realtà quello che conta è la vita, quello che conta è cercare di tenere in piedi anche il sogno magari di fare quello che si vuole. In questo ti sei scelto un paio di protagonisti che hanno volti, come dire, indimenticabili, come quelli di Nando Paone e di Ernesto Maillieu, che sono volti molto ma molto più famosi dei loro nomi ovviamente, però Ernesto Maillieu lo ricorderete dall'Imbalsamatore, ha qualcosa a che fare con i volatili evidentemente, è un grandissimo attore, e invece dall'altra parte Nando Paone, visto sicuramente un volto scavato che riconoscerete, ricorderete in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Allora ti chiedo come nasce un po' l'idea di incentrare questo microcosmo sul bracconaggio di Cardellini. Allora, in realtà io ho girato più di 10 anni fa un documentario, Cardilli addolorati, che raccontava proprio questo mondo di bracconieri, e questo documentario girò un po' tutti i festival e anche le piattaforme, allora non si chiamavano piattaforme, TV satellitari, e praticamente riscuoteva un grande successo, faceva riflettere ma anche ridere molto. Allora dissi: dobbiamo scrivere una commedia su questo mondo agrodolce, e così è stato. Poi ci abbiamo messo 10 anni tra varie traversie, e alla fine Nando Paone, il protagonista eccellente, come dici tu, proprio utilizzato anche da Garrone in reality, ma la sua veramente natura emerge qua in tutte le sue sfaccettature, quasi un nostro Jean Rochefort, mi permetto di dire, o un Leopoldo Trieste, ecco, per chi ricorda anche Leopoldo, un po' stralunato, un poco surreale, ma è tutto il tono di questa storia che è un po' favolistica, appunto per non essere diciamo troppo fedeli al documentario, abbiamo cercato di dare un tono iperrealistico con scenografie, costumi e ambientazioni, appunto, e allo stesso tempo questo Nando che è stralunato, ma che si chiama Pasquale Cardinale nel film, il suo racconto personale si unisce a quello del gruppo dei bracconieri, quindi il pretesto è raccontare la sua svolta, il colpo che potrà cambiare la loro esistenza con questi 200 cardellini bianchi camuffati che valgono decine di migliaia di euro, davvero nella vita di questi bracconieri al sud, ma tutto un pretesto non per raccontare, ecco, documentaristicamente come avevo già fatto, ma per raccontare così in modo un po' favolistico il senso del cambiamento, la vecchiaia che incombe, perciò tutti questi uomini un po' attempati, anche Pino Mauro, no? Che è il re della sceneggiata, che si è visto mettere in modo ironico in questa veste di rigattiere, o Lino Musella, che è l'attore italiano adesso emergente come Giovanni Ludeno, nelle nuove generazioni, che sono invece appunto dei personaggi veramente un po' goffi e un po' a loro volta così fuori di testa. Insomma, c'è questo intento di raccontare attraverso un tono agrodolce invece i temi della vita, della morte, dell'incombenza, della vecchiaia. Questo certo. Poi credo sia quello che emerge. Assolutamente. C'è, Carlo, una sospensione e un'attesa, un senso di attesa che fa un pochino, spira un certo vento eduardiano, no? Se vogliamo, in questa cosa, cioè il fatto di una ineluttabilità del futuro e di un'attesa che a un certo punto viene rotta da un evento che ovviamente non svegliamo, ma che dà al film quella componente quasi filosofica che era tanto cara a De Filippo. Esatto, sicuramente paradossalmente, poi senza volerlo, perché sarei bugiardo se dicessi che abbiamo scritto con questo intento, però senza volerlo anche tutti gli attori, da Gigi De Luca, Maillé stesso, Nando, hanno lavorato con Edoardo, quindi qualcosa si sente, qualcosa emerge, nonostante no, noi non abbiamo avuto questo intento esplicito, però certo. Forse nel nostro immaginario tra Edoardo e anche Raffaele Viviani lo viviamo questo mondo marginale e emarginato che non ha mai voce, quindi anche noi stiamo cercando di aver voce, come dicevi tu, a luglio, ma non solo nelle sale, che anzi uscirà forse a settembre le sale, ma adesso soprattutto arene, ma anche drive-in, questa è la novità in tutta Italia, partendo dalla Campania, ma poi andando a Milano, venendo a Milano il 19 agosto, il 7 settembre, poi andando fino ad Udine, da Udine a Palermo, compresi drive-in invece in altre regioni, insomma è la Puglia, è l'Umbria, insomma insomma. Con tanti cardellini, questa... mi raccomando, portatevi i cardellini e fate volare i cardellini in esatto. queste vostre puntate per le arene estive d'Italia. Hai detto giustamente, evento all'Arena Milano Est il 19 agosto con la presenza di Carlo Luglio, quindi ci ritroveremo tutti lì. Grazie Carlo, il ladro dei cardellini è in giro per l'Italia e ben trovato e grazie per essere stato con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a voi e a presto. Il ladro di cardellini, quindi a questo punto le strade in diretta, fra poco torniamo, un altro grande autore da ascoltare in una chiave molto particolare, quella di un cosiddetto visual essay che viene rappresentato alla Fondazione Prada, è Bertrand Bonello, fra poco la Rosa Purpurea. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, prima di addentrarci con Giulio San Giorgio nei meandri dei palinsesti in chiaro della prossima settimana per scegliere un paio di film da consigliarvi, un altro grande autore, quella Rosa Purpurea in questa settimana, Bertrand Bonello, autore caro ai grandi festival internazionali, molto molto cinefili, autore di un film nel 2001 che fece scandalo, che si intitolava Le Pornograph, poi Tiresia, poi Saint Laurent nel 2014, Zombie Child, il suo ultimo lavoro nel 2019, però questa volta Bertrand Bonello lo incontriamo, lo intervistiamo in una chiave un po' diversa, perché è stato l'autore del secondo dei cosiddetti visual essay, cioè diciamo dei saggi visuali commissionati dalla Fondazione Prada e visibili online nelle proprie piattaforme digitali. E allora Bertrand Bonello rimette e rielabora gli ultimi minuti della sua pellicola del 2016, Nocturama, che documenta le operazioni logistiche e l'organizzazione di attentati terroristici a Parigi da parte di un gruppo di adolescenti. E quindi ripartendo da questo ricrea un pochino la forma e la materia del suo cinema a favore di questo esperimento, di questo visual essay. Allora noi abbiamo raggiunto con i mezzi moderni della tecnologia, non si dice più telefonicamente in questo caso, ma con dei WhatsApp audio, Bertrand Bonello per farci raccontare come è nata l'idea di questo visual essay. Semplicemente sono partito dalla condizione iniziale che mi era stata data. Come possiamo creare qualcosa di nuovo in un momento in cui non era possibile realizzare delle nuove immagini? In effetti, le uniche immagini a disposizione si rifacevano al reportage e all'informazione. Questo ci porta a delle immagini già esistenti che ripensiamo, quindi a delle immagini di archivio. Il lavoro sugli archivi è senza dubbio appassionante, ma provoca anche una vertigine. Quindi ho provato a ritornare a me stesso e a rifarmi ad un film, Nocturama, che al momento della sua uscita era stato frainteso. Un film con una storia che oggi, in un momento in cui parliamo molto di violenze della polizia, risuona in un modo differente. È quello che ho voluto dire in questo saggio visivo. E poi sono partito da un formato che avevo sperimentato 6 anni fa per il Centre Pompidou, ovvero una lettera a mia figlia recitata sotto forma di sottotitoli, come ho fatto con questo lavoro. In quel lavoro parlavo di altri miei film, ma non di Nocturama, perché all'epoca non era ancora stato girato. L'idea era di trovare una narrazione la più intima possibile in questo momento di isolamento che ho vissuto come qualcosa di molto personale. Intime possibile in questo momento di confinement che è assez intime. Cosa dà al pubblico che lo vede questo saggio visuale di più e di diverso rispetto al film? Beh, allora. Oui, les images sont les mêmes, beaucoup plus ramassées parce que le film fait 15 minuti. Le immagini sono le stesse, anche se molto più compresse, perché il saggio visuale dura poco meno di 15 minuti, ma il senso che hanno queste immagini è completamente diverso. Sono decontestualizzate, usurate, distanziate. C'è la musica che copre un po' tutto e poi c'è qualcosa che arriva come un'aggiunta dopo parecchi anni. Le immagini fanno da supporto a un'altra riflessione, dunque considero questo saggio come una sorta di post-scriptum. Il tema del disagio sociale in Francia è stato rilanciato recentemente anche al cinema dal successo dei Miserabili di Lage Lee, gran premio della giuria allo scorso Festival di Cannes. Quanto è urgente questa problematica nella società francese? Oui, il y a évidemment une urgence, mais surtout je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. C'è sicuramente un'urgenza, ma credo che soprattutto bisogna porci le giuste domande. Nella nostra società c'è un rapporto molto complesso con il presente, ma anche con il passato. E tutto questo si riflette anche nella costruzione del futuro. La Francia ha difficoltà a fare i conti con il suo passato, con la sua storia. Il mio ultimo film, Zombie Child, parla molto di questo, perché tratta del legame tra la Francia ed Haiti e quindi del tema del colonialismo. Dunque la questione è questa. Cosa facciamo della nostra storia in un paese che è la patria della rivoluzione francese, ma che non è sempre stato all'altezza delle sue dichiarazioni di principio? Per quanto riguarda il presente, non c'è dubbio che ci sia un disagio e una tensione enormi e quindi un'urgenza a compiere delle azioni. Ma non bisogna confondere l'urgenza con la fretta e rifugiarsi in un discorso semplicistico e demagogico. Bisogna invece accogliere la complessità di tutti i diversi livelli di lettura per poter riflettere nel migliore dei modi e andare verso una direzione più giusta. Chi soit la bonne, ancora une fois, c'est le passé et le présent pour penser le futur. Grazie a Bertrand Bonello, ricordiamo il suo visual essay per Finite Rents alla Fondazione Prada, ma più che altro online sulle piattaforme della Fondazione Prada lo potete vedere, questo Nocturama rifatto in versione saggio visuale. E siamo giunti poi adesso al momento in cui raccontiamo un po' il cinema da vedere in casa, oltre a quello delle piattaforme streaming per il cinema più nuovo, quello invece un po' del passato. Ritorniamo indietro di 7 giorni, avevamo giocato con questa clip. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. E allora, si trattava di Jojo Rabbit, questo l'avevamo già detto la settimana scorsa, non avevamo ancora però annunciato i due vincitori, che sono Andrea Francalanci di Terranuova Bracciolini, provincia di Arezzo, e Alessandro Perfumo di Acquiterme, provincia di Alessandria. Sono i nostri due ascoltatori che riceveranno la versione Blu-ray di Jojo Rabbit, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Tutti i bimbi prima o poi si creano un amico immaginario, compagno di gioie e tristezze. Giorgio ne ha uno ed è il suo idolo e si chiama Adolf Hitler. Siamo in Germania nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale e Giorgio desidera essere un bravo nazista, ignorando però che sua madre non condivide certo il suo fervore e nasconde in casa una ragazza ebrea. È una scoperta che segna per il bimbo la fine dell'innocenza e una faticosa lezione di apertura all'altro. Non siamo dalle parti di Mel Brooks, nonostante la trama ci porti su questa via, ma in zona limitrofa La vita è bella, dove il gioco ironico è pronto a scoprire il melò. Nel Blu-ray di ottima fattura, commento audio di Taika Waititi, che fa telefonate ai elementi del cast per discutere sul film, 3 scene tagliate per un totale di 9 minuti, gag fuori scena e un making of di 30 minuti. Giulio, diamo un'occhiata come sempre ai palinsesti in chiaro della prossima settimana per cominciare a scoprire un capolavoro di Ettore Scola che si intitola Ballando Ballando. Sì, 2 segnalazioni di poche parole e alto cinema. Cominciamo da Ballando Ballando, ore 21:10, Restoria domenica. Una balera della cintura parigina fa da sfondo, ma è anche protagonista di 50 anni di storia francese. Questo è uno sguardo unico alla storia della Francia del XX secolo, illustrata nella cultura popolare, ambientata in una sala da ballo parigina che non presenta linee narrative continue, dialoghi e personaggi ricorrenti. Il film di Scola passa da un numero di danza a quello successivo dal foxtrot al twist, mentre la musica riflette il tenore politico e culturale dei tempi, dal fronte popolare all'occupazione tedesca della seconda guerra mondiale fino al dopoguerra e ai movimenti del maggio 68, chiudendosi nei primi anni 80. Veramente un film eccentrico, bellissimo, assolutamente da recuperare. E Ballando Ballando sarà in onda domenica 26 luglio alle 21.10 in prima serata su Rai Storia. Un altro passo avanti di un giorno, lunedì 27, sarà il momento di All is Lost, Tutto è Perduto. Sì, All is Lost, Tutto è Perduto, alle ore 17.05 su Iris lunedì. È un film che citiamo sul prossimo numero di Fin TV, perché se non ci sono le Olimpiadi, noi ci facciamo le Olimpiadi al cinema, coi film. E questo è un film sportivo sui generis, direi, disciplina velistica. Un uomo si risveglia in mezzo all'oceano dopo che la sua barca ha urtato contro un container, con la radio fuori uso deve fronteggiare una violenta tempesta e aggrapparsi a tutte le sue forze per sopravvivere. Questo uomo è interpretato da Robert Redford e con sperimentale Jesse Chandor, il regista, uno dei grandi del cinema nuovo americano, pone l'accento sulla componente sonora incessante, senza musiche invadenti né, appunto, come dicevo prima, voce umana. È un racconto in soggettiva dalla grandissima regia, il cui punto di vista è affidato ora a Redford, ora all'acqua che lo circonda, che è un'autentica voce narrante. È un film di sopravvivenza struggente e potentissimo. E appuntamento con All is Lost lunedì 27 luglio alle 17.05 su Iris. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, e la prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Come sempre, non ci resta che il tempo di annunciare il film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Bianca di Nanni Moretti. I vincitori li annunceremo la prossima settimana. Come sempre, il sabato alle 18 staremo insieme tutto il mese di agosto, con repliche anche la domenica, tra l'altro, che è la Rosa Purpurea, per raccontarvi, come sempre, tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisti. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.